E in quel momento hai sorriso e non sai perché. Era da un po' che non sentivi tutti i muscoli delle tue guance e gli occhi adesso respirano, le mani adesso ricordano. Avevi due desideri che non riconosci più, ma puoi averne di migliori se ti tieni solo quelli che vuoi tu. Se questo cielo di Roma può coprire ogni voragine, lasciarti senza parole. La bellezza è l'invisibile, due ali di crisalite. Perché hai deciso di perdonarti, rinascere ancora, imparare ad amarti. E metto io che adesso lo sai, che niente può rubarti mai il diritto di essere felice. Hai camminato delusa fino alla fine dell'inferno e sei tornata ter illesa con le gambe un po' più forti. Silenzio una storia e l'ombelico è memoria di una ferita speciale. La bellezza è l'invisibile, due ali di crisalite. Perché hai deciso di perdonarti, rinascere ancora, imparare ad amarti. E nei tuoi occhi adesso lo sai, che niente può rubarti quella rabbia, forse l'energia che non sapevi usare, forse la tua voglia di vivere che si vergognava. Ora il battito è quasi normale e nello specchio ci sei tu per non dimenticarti più. La bellezza è l'invisibile, due ali di crisalite. Perché hai deciso di perdonarti, rinascere ancora, imparare ad amarti. E nei tuoi occhi adesso lo sai, che niente può rubarti mai il diritto di essere felice. In quel momento hai sorriso e non sai perché, ma nell'amore che hai difeso il diritto di essere felice.